quanto ti amo, quanto ti amo, quanto ti amo, quanto ti amo. È la prima volta che mi lascio andare e che non nascondo la felicità. È una sensazione bella da provare, sei l'effetto strano che l'amore dà. Calda come il primo sole dell'estate, dove ogni avventura sembra una poesia. Quando le illusioni sono un po' abbronzate e ci si innamora con una bugia. Guarda com'è grande questo nostro amore, che ti prende dentro e non ti lascia più. Sto scoprendo adesso in queste poche ore che nella mia vita ci manca. Verso l'equatore per cercare insieme la felicità. E staremo insieme sotto questo cielo, dove il tempo passa dall'azzurro al blu. Guarda com'è grande questo nostro amore, che ti prende dentro e non ti lascia più. Somebody, somebody, somebody.

sai, non è stato uguale mai. Solo tu, solo tu, non tutela. Per svegliarmi ancora un giorno insieme a te. Parlare più, lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio, non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio, c'è fumo e odore caldo. Caffè, ognuno pensa a sé, è il giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora, stare insieme è finito. Tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno, ci stiamo svegliando. La perdonerò e

la TV e non parli, non ridi più. Non dirmi che non ti va più. Dai, non far quella faccia lì. Non è certo finita qui. Un po' fragile, un po' insicura. Non dirmi che non sei più mia. Mia, mia, mia donna, donna mia. Mia, mia, mia, mia. Non dirmi che tu vuoi andare via. Mia, nella mente, nel cuore. Mia, nei miei giorni, nel tempo. Mia, non tremare, non aver paura. Non sei un'avventura, sei mia. Nei tuoi sogni proibiti, mia. Nei miei sogni proibiti, mia. Un po' donna, un po' bambina. Sorridi e mi vieni vicina. Più di questo che vuoi di più. Dimmi cosa ti manca in più. Un po' fragile, un po' insicura. Ti amo e lo sai che sei mia. Mia, mia, mia donna, donna mia. Mia, mia, mia, mia. Non dirmi che tu vuoi andare via. Mia, nella mente, nel cuore. Mia, nei miei giorni, nel tempo. Sei un'avventura, sei mia. Nei tuoi sogni proibiti, mia. Nei miei sogni proibiti, mia. Un po' donna, un po' bambina. Sorridi e mi vieni vicina. Profumo che troppe volte.